signori. Musica e ritmi di Gigi D'Agostino che si capisce? Sì, dai. Titolo? Hold on, Love Transistor. Per cambiare rotta. Continuare a darmi risposte inutili, che cercano soltanto di colmare l'esplicito. Io non predico una strada, ma un mondo pieno di strade. Una maggiore conoscenza, una maggiore scienza. Una maggiore conoscenza, una maggiore scienza. We'll be right back.

vai su www.ggdag.com e fai la votazione. A scegliere il sito che ti saprà paginetta. Per votare basta cliccare. Ti si apre la paginetta e vota la canzonetta. Bravo, bravo. Strada a te, di. Strada a te, di. Suona Gigi da Gigi da da da da Agostino. We'll be right back. Celestino Discobar. Momento creativo. massaggio all'aperitivo. Massaggio all'aperitivo. Momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Pigia. Stai a pigia? E allora pigia pigia. È arrivato lento, violento me. Antasco da Maia. We'll be right back.